cambiato immagini e numeri in corsia. Radio mi capete, università. Il paziente era un'ombra sulla scrivania. Mai la sua voce, mai la sua verità. Poi il territorio mi ha preso di lato, un fonendoscopio poco più di così. Mal di schiena, solitudini in sala d'attese, la mia anima che cambia senza chiedermi sì. La scienza non basta a reggere il peso di un dolore che non puoi guarire. Così ho aperto un libro di filosofia per capire chi sono mentre provo a curare. Dimmi che senso ha se la medicina non mi salverà. Abbiamo fatto dei medici sacerdoti e della scienza una nuova divinità. Ma davanti alla paura restiamo nudi, tra Novax, fiducia e fragilità. Così cerco un altro passo nel rumore moderno. Lo chiamerò oltre moderno, un passo oltre il postmoderno. Da tale Tianice, l'Occidente che si spezza, Dio che muore, la ragione che non basta più. Il linguaggio diventa campo di battaglia, ogni verità si scioglie dentro un talk show in TV. Marx diceva, è l'economia la struttura, il resto è solo sovrastrutturalità. Ma oggi controllano le parole, i vocaboli giusti per non toccare mai chi il potere ce l'ha. Se un governo in silenzio ti desse lavoro e dignità senza fare rumore, lo crederesti ai fatti o ai meme su Instagram quando parla di vaccini e di salvare vite? Dimmi che senso ha censurare ciò che si dirà, se lasci intatte le radici di chi decide chi conta e chi no. Io resto qui tra pazienti e corridoi con la mia piccola filosofia d'ambulatorio, che non adora né Dio né lo sincismo, ma guarda in faccia il mondo e la sua realtà. E se un giorno l'essere vorrà farsi sentire, lo ascolterò nel silenzio d'attesa, cercando ancora un varco nel caos moderno. Lo chiamerò oltre moderno, un passo oltre.